Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Ma ti sembra possibile che Sandokan avrebbe potuto avere a che fare con una tigre che mangiava solo insalata? Ma dai! Non so se mi sembra possibile, ma potevamo sottrarci dal rispondere, potevamo? No, questo no, purtroppo. Allora, dunque, benvenuti a Mebius, sentiamo i titoli e poi arriviamo alla risposta. Va bene. Davide ci chiede: è possibile nutrire i propri animali domestici con cibo che non contenga carne o derivati? In sostanza, possiamo far diventare vegetariani i nostri amici a quattro zampe. Tutti in carrozza! Un viaggio sul mezzo di locomozione più affascinante ed esclusivo. La percezione del tempo negli animali. Hanno il senso del passato e del futuro? Costruire ospedali in Africa e avere buone idee per come costruirli anche qui da noi. La facciamo. E poi insomma, la facciamo fare a... se non sei d'accordo poi possiamo sentire. Senta Davide, ci dica la sua domanda. Recenti statistiche confermano l'aumento in Italia di persone vegetariane e vegane. E a questo punto mi è sorta una domanda: ma è possibile nutrire i propri animali domestici, cani e gatti, con crocchette che non contengono carne e derivati? Com'è che le viene questa idea? Ma scusi, perché deve decidere lei al posto del gatto o del cane? Diciamo che allora, io sono vegetariano da diversi anni. Ecco, vede. Mi interfaccio solitamente, spesso, con altri padroni di cani. Ogni tanto mi capita di incontrare anche altre persone vegetariane che ovviamente fanno questa scelta per motivi etici. Per cui mi sono chiesto, ma se per il cane fosse possibile nutrirsi di crocchette, insomma, che non contengono carni o derivati, lo farei io come lo farebbero anche tante altre persone. Ma è possibile? E però lei si rende conto che deciderebbe per il suo cane o per il suo gatto? Questo assolutamente sì. Questo è che decido per il mio cane tante altre cose. Per cui... Questo è vero. Beh, allora direi di andare a sentire la parte scientifica e rigorosa, se è possibile in qualche modo. Se ha senso. Grazie, arrivederci. E l'esperto questa settimana è un veterinario nutrizionista dell'Università Statale di Milano. Buonasera e benvenuto Valentino Bontempo. Buonasera a voi. Niente, abbiamo appena sentito questa domanda. Insomma, è possibile far diventare vegetariani i nostri amici a quattro zampe? Beh, è una domanda che viene sempre più spesso rivolta. Perché appunto c'è questa idea che gli animali d'affezione hanno subito certamente una variazione delle loro abitudini alimentari rispetto a quello che fanno in natura. Certamente cane, soprattutto un po' meno il gatto, si sono avvicinati in questo nelle loro abitudini alimentari all'uomo, ma certamente hanno conservato il loro carattere che è prettamente carnivoro. Il gatto sicuramente di più rispetto al cane, ma la loro condizione di animale carnivoro comunque è ancora prevalente. È quella di base, che io personalmente ho forte perplessità da questo punto di vista. La perplessità nel senso che non riusciremmo a convincerli? Ma sicuramente il gatto è molto difficile da questo punto di vista. Nel cane è un po' più di bocca buona, se vogliamo, ma comunque il ruolo della carne direi che è fondamentale anche nella sua dieta. Ecco, è fondamentale nel senso che oltre ad essere una scelta etica del padrone, quindi discutibile, ma è comunque del padrone, farebbe comunque male loro, no? Non funzionerebbe. Non sarebbe salubre. Le dirò, c'è proprio un caso abbastanza recente che è stato riportato da dei colleghi veterinari australiani che hanno ricoverato un gatto che era stato alimentato per lungo tempo con una dieta di questo tipo, erano in scadentissime condizioni di nutrizione e l'hanno salvato grazie all'utilizzo della carne. Tra l'altro questi colleghi hanno preso proprio spunto dal caso che è capitato proprio per iniziare una campagna di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica che ritiene invece possibile questo tipo di trasformazione. Ma le chiedo però, quei croccantini che adesso si usano moltissimo, in realtà contengono anche carne, no? Almeno da quello contengono delle farine di carne che sono che fanno parte della composizione della dieta. C'è anche una selezione che è importante da parte dell'industria, a trovare delle farine di carne che possano soddisfare al meglio le esigenze sia del cane che del gatto. Bene, quindi dal punto di vista della salute, continuate a dargli le crocchette a base di carne derivati, perché sennò fa male, ecco. Sì. E poi invece il nostro ascoltatore diceva: io scelgo tante cose per lui e perché no scegliere anche la dieta. Dal punto di vista invece del comportamento, questa scelta del padrone che si impone sull'animale, anche questo forse non è correttissimo. Per quanto riguarda gli animali d'affezione, un po' si pone il problema che abbiamo nei confronti dei nostri bambini. Siamo noi che scegliamo la dieta che riteniamo più adatta, più utile, e quindi questo accade anche per quanto riguarda il cane e il gatto. Una volta che abbiamo accettato il cane e il gatto come un componente del nostro nucleo familiare, è chiaro che cerchiamo di trovargli il prodotto che gli faccia bene, e quindi indubbiamente la scelta è sicuramente importante, ma torno a ripetere, non bisogna dimenticare quello che è la loro condizione naturale, che è vero un po' cambiata data la vicinanza con l'uomo, ma rimane sempre quella di un animale carnivoro. Ma potrebbe evolversi? Nel senso che per noi umani stiamo, mi pare, capendo che effettivamente, per esempio, la componente carne andrebbe ridotta. La carne rossa, soprattutto. Moltissimo. E perché, insomma, ci mettiamo un po' di testa e evolviamo. In effetti potrebbe essere possibile, solo che certo ci sarebbe tutto un periodo intermedio con gatti ricoverati e cani pure, questo non è gradevole. No, un'evoluzione in questo senso c'è già stata, se vogliamo. Cioè, se guardiamo le crocchette che erano formulate una decina d'anni fa, forse anche di più, rispetto a quelle attuali, soprattutto per quanto riguarda il cane, notiamo che c'è un tenore proteico un po' più basso, rispetto a prima. Quindi questo è sicuramente il frutto di una tecnologia che è sempre più evoluta e che consente quindi di mantenere sempre di più il valore nutrizionale delle proteine e anche delle crocchette in generale, e c'è anche una maggior conoscenza di quelli che sono i fabbisogni. Quindi un'evoluzione sulle quantità, quello indubbiamente è già iniziato. C'è già stato e ci sarà. L'assenza totale mi lascia molto perplesso. E in conclusione volevo sapere, in natura, che lei sappia, esistono casi di questo genere? La tigre, ad esempio, che diceva Federico, di Sandokan. No, quella no. Può diventare vegetariana di sua spontanea volontà? Ma no. L'animale selvatico un po' di verdure comunque le assume, un po' di fibra comunque le assume. Nel cacciare le prede ovviamente si ciba soprattutto di interiora, che contengono attualmente proteine animali, ma contengono anche i vegetali che erano stati assunti dalla preda. Diciamo che anche comunque in natura si segue un percorso di una dieta che sia sempre più bilanciata e rispondente alle esigenze. Ma sempre un po' indiretta però, no professore? Cioè non c'è che la tigre che si mangia anche il puma un po' di insalatina dopo aver mangiato carne. È sempre un po' indiretto, certo. Va bene, grazie professore. Prego. Buon lavoro, arrivederci. Arrivederle, grazie. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo qua in mezzo alle carrozze, guarda quante ce ne ha portate veramente giù. Veramente belle, perché sono delle foto, delle immagini, abbiamo delle ricostruzioni, abbiamo dei disegni, abbiamo un po' di tutto qua sul nostro tavolo. E perché parliamo di carrozze? L'abbiamo anticipato nei titoli, viaggio in carrozza oggi a Mebius. Sì. Perché? Perché riprendiamo un articolo che è uscito qualche settimana fa sulla Domenica del Sole, a firma Marco Carminati, che è un collega. Ciao Marco. Ciao, buonasera a tutti. È qui con noi perché, insomma, l'abbiamo invitato così per fare una chiacchierata sulle carrozze. Ci sembrava un tema molto affascinante. Sono un oggetto tecnologico, no? E quindi vogliamo capire come si è evoluto. Tu non sei esperto di carrozze, ti sei imbattuto. Io mi sono imbattuto in una bellissima mostra che consiglio a tutti di andare a vedere, alla Veneria Reale. C'è una mostra dedicata appunto alle grandi carrozze che sono state costruite dal 700 fino a quando la carrozza è diventata un'automobile. Ma la stessa parola designava chi faceva le carrozze e chi faceva le automobili. Questo Cesare Sala, che era stato il carrozziere dei Savoia, cioè aveva fatto tutte le carrozze per le grandi cerimonie dal Quirinale al Parlamento, che i Savoia hanno usato fino alla guerra, ha fatto poi, poiché la Fiat aveva impiantato gli stabilimenti, la carrozzeria delle automobili della regina, per esempio della regina Margherita, che era una grande collezionista di automobili. Sono proprio incrociati. Sì, perfetto. Veneria Reale, quindi siamo a Torino? Siamo a Torino, siamo alle porte di Torino, in questo grandissimo castello che è stato recuperato qualche anno fa, che fa una serie di mostre molto importanti. Ricordiamolo, la mostra è aperta fino al 2 di febbraio 2014, sì, quindi abbiamo tutto il tempo di andare a visitarla. Sì, sì, sì. Vabbè, senti, però le carrozze ci sono dai tempi dei Romani. Solo sì, che all'inizio erano veramente scomode. Sì, era meglio non viaggiare sulla carrozza. Tant'è vero che un uomo, se vuole essere tale, deve andare a cavallo. La carrozza per molti secoli non era utilizzata dagli uomini. Con il Medioevo comincia a essere utilizzata soprattutto dalle donne e dai sacerdoti, ma sempre il cavaliere sta a cavallo, anche perché erano mezzi di trasporto terribilmente scomodi. Non c'era modo di ammortizzare, per esempio. Ecco, infatti stavamo proprio per chiederti questo. Cioè, come avviene l'ingegnerizzazione di questi stranissimi Il passaggio è proprio quello di capire che su queste strade, che naturalmente non erano asfaltate, erano delle strade terribili, tant'è vero che si andava più volentieri, soprattutto in Italia, via mare, si navigava piuttosto che fare molto le strade. Però ci si rende conto, soprattutto all'inizio del 600, che la carrozza può essere migliorata attraverso un sistema di cinghie. Sostanzialmente si ammortizzano i colpi che la strada infierisce contro chi viaggia attraverso delle grandi cinghie. Questo sistema verrà utilizzato praticamente fino alla fine dell'Ottocento con delle carrozze particolari. Scusa, com'è che questa roba delle cinghie sono? Perché per ammortizzare tu hai bisogno di qualcosa tra la ruota e l'involucro. L'involucro che deve essere sospeso e che deve in qualche modo flottare per non assorbire i terribili colpi. Ma di solito non erano di ferro? Allora, vengono fatte prima con cuoio, poi si sperimentano un po' delle catene, poi alla fine con dei sistemi, sono sostanzialmente dei sistemi di metallo, sono delle cinghie, in realtà sono delle lastre di metallo, e qui con questo sistema si poteva viaggiare. Però attenzione, le carrozze che ci sono a Veneria Reale servivano per tratti molto brevi, perché erano le carrozze di Stato. Quindi cioè, di rappresentanza. Sì, il re si manifestava nella carrozza, come succede oggi con la regina d'Inghilterra, che ogni tanto fa queste sue grandi traversate per Londra in sontuosissime carrozze. Quindi magari non comodissime, ma di un'eleganza strabiliante. Perché erano gli artisti che realizzavano. Noi abbiamo a Torino, per esempio, delle carrozze, anzi abbiamo dei disegni che sono addirittura dello Juvarra, cioè del grande architetto del Settecento torinese, che si prestava a fare i disegni per le carrozze, così come i mobilieri o gli scultori facevano lo stesso lavoro. Infatti tu all'interno dell'articolo parli anche degli interni. Gli interni, appunto, grandi mobilieri addirittura intarsiati, stoffe preziosissime. Sì, gli interni erano molto curati, perché naturalmente erano momenti di esposizione del potere, e in particolare c'è una carrozza che è uguale a tutte le altre, ma se uno si affaccia si rende conto che c'è un posto solo, e quella capiamo essere la carrozza del Papa di Pio IX, perché Pio IX stava da solo nell'abitacolo. La Papa Carrozza. Sì, la Papa Carrozza. Presente, molto bella, all'interno di questa mostra, perché curiosamente non si è conservato quasi nulla di queste grandi carrozze da parata di Stato prima della Rivoluzione Francese, perché i rivoluzionari le hanno distrutte come simbolo odioso del potere. E durante la restaurazione invece i signori italiani, e compreso il Papa, se ne fanno costruire alcune piccole flotte. A proposito di questo, cioè, erano mezzi di locomozione molto esclusivi, venivano utilizzati dalla classe più elevata, oppure esistono dei modelli anche più popolari? Ma diciamo che questi modelli che sono a Torino erano esclusivi della grande aristocrazia, del potere, e non a caso il termine berlina, che designa questo tipo di carrozza, è utilizzato ancora noi oggi per identificare un'automobile di particolare pregio. Sì. No, usiamo la berlina quando uno si compra una berlina, fino a qualche tempo fa, poi adesso sono arrivati altri modelli. Ecco, chi la vede più la berlina? Però fino a un po' di tempo fa la berlina era la macchina elegante per antonomasia. Da dove deriva questo curioso nome? Beh, è una cosa molto curiosa. È una carrozza che venne approntata a Berlino e fece un viaggio fino a Parigi. Quando arrivò a Parigi si accorsero che questa carrozza era particolarmente comoda ed efficace. efficace e anche sontuosa, e chiamarono la carrozza che veniva da Berlino la Berlina. Da qui deriva il nome. E lì c'è stato il condanno. Ecco, però tu adesso hai fatto il caso invece di viaggi lunghi. Sì. Perché anche, magari non sempre il re, oddio, però il re faceva, per esempio quando fuggiva, faceva dei viaggi lunghi. Però c'erano dei grandi nobili, o il vescovo. Il viaggio poteva essere anche di qualche centinaio di chilometri. Questi oggetti, queste carrozze che viaggiavano, avevano invece una struttura diversa. Riusciva effettivamente questo sistema di ammortizzatori a renderle degli oggetti su cui si poteva andare, oppure era sempre un inferno? A quanto pare sì. Le molle, a cui noi penseremmo immediatamente, erano già state utilizzate nel 500, ma c'erano dei problemi tecnici per cui non le hanno più utilizzate. Non è che non ci avessero pensato di molleggiare, no? C'erano già, però non era efficace. Era molto più efficace usare delle corde, delle lastre di potentissimo cuoio o cose del genere, e le molle diventeranno poi una presenza nelle automobili. Perché di queste carrozze, di queste carrozze che risalgono, ripeto, anche alla seconda metà dell'Ottocento, perché i Savoia con l'Unità d'Italia fanno fare un treno di carrozze apposta per l'ostentazione del loro potere come nuova dinastia italiana, non ci sono, a guardare bene, nessuna molla, quindi le molle diventeranno qualcosa legato alle automobili. Queste qui di lusso che fanno 2-3 chilometri in città non hanno molle, tendenzialmente. No, sono sempre tutte sospese, lo si vede dai disegni, anche dalle carrozze, per chi andrà a vederle. L'abitacolo è sospeso con dei grandi, ci sono degli elementi di metallo sopra le ruote che tendono. Tra l'altro c'era un sistema di ingranaggio che poteva allentare o tirare di più il sistema diciamo così, delle fasce, degli ammortizzatori a seconda della strada. E questo sistema ha un nome curioso, il crick, che ancora noi utilizziamo, ma per un'altra cosa. Però se vogliamo è un po' un sistema il così. Il sistema funziona con questi anelli dentati che si bloccano, e funzionava allo stesso modo. Si poteva, in caso di una strada particolarmente difficile da percorrere, poteva allentare un pochettino l'ammortizzatore. Io ho in mente, per esempio, quelle illustrazioni molto belle inglesi della metà dell'Ottocento, dove ci sono invece delle carrozze per 10 persone divise in due. È il sistema del trasporto pubblico. Erano scomodissime perché salivano parecchie persone con i bagagli, c'erano molte soste, molte stazioni, ci sono anche stati molti incidenti perché si rovesciavano con una certa facilità, però è stato per molto tempo il trasporto per antonomasia, soprattutto nelle lunghe distanze tra le capitali europee. Ma qui stiamo parlando veramente delle flotte esclusive. A Torino non c'è niente di popolare, niente, addirittura ci sono delle carrozzine reale papale per i bambini nobili che dovevano abituarsi fin da piccole a giocare con questi oggetti esclusivi. Se piove, se tira vento, se c'è neve. Vabbè, c'erano anche lì i modelli decapotta, modelli. Allora, ma il guidatore però è sempre scoperto. E lui aveva questo tipo di cappotto che ancora oggi noi vediamo. Qualcuno pensa che sia una cosa elegante, cioè il cappotto con la mantellina. Ogni tanto capita di vedere qualche. Il cocchiere, ma quello lì era. Oggi la noi tenuta. Lo mettiamo come una cosa, qualcuno ce l'ha, insomma, non è diffusissimo, ma io vedo ogni tanto alla Scala qualcuno che arriva col mantellino. Ma in realtà quella mantellina lì era la prerogativa del cocchiere, quindi non è esattamente un capo di origine aristocratica. Ecco, le carrozze hanno dei nomi a seconda di come sono fatte. Per esempio, la berlina per due persone era tagliata. E questa parola coupé in francese continua nella nostra tradizione delle automobili. Ma in che senso tagliata? Perché diciamo che la berlina era una carrozza che aveva all'interno quattro posti, due da una parte e due dall'altra. Aveva una specie di separé? No, si entrava nell'abitacolo e le persone si sedevano di fronte due di fronte agli altri due. Però poteva capitare che questa carrozza avesse solo due posti. E quindi era tagliata, era coupé. E tra l'altro in italiano non si usava la parola coupé, ma la parola berlingotto, per indicare una berlina un pochettino più. La metà della berlina. Sì. E poi altri nomi buffi di questo genere? Allora, abbiamo visto che se faceva caldo e se ci si voleva far vedere meglio dal popolo, era meglio salire su un landò, che era una berlina ma completamente decapotabile. Poi c'erano naturalmente le portantine, che sono un'altra cosa, perché lì ci volevano non i cavalli e le ruote, ma le persone che e quelle proprio antichissime che ci portavano. Poi abbiamo per esempio il calesse, che era aperto completamente. Il calesse non aveva la possibilità di una chiusura. Ecco, tenete conto che tutte queste queste carrozze servivano, come si diceva, proprio semplicemente per attraversare le città in momenti pubblici. Era uno dei momenti più pericolosi, ecco, per le famiglie. Infatti regnanti. Tu nel tuo articolo giustamente dici che il personaggio sulla carrozza era molto esposto. Sì, sì, re di Francia, sono stati uccisi, noi conosciamo storie recenti, il nostro re d'Italia Umberto I è stato ucciso mentre si espone, certo, in una passeggiata in carrozza, a Sarajevo succede lo stesso, sì. E ci sono i casi poi recentissimi di Giovanni Paolo II che appunto rischia la vita sulla Papa Mobile. Ecco, quindi questi erano dei momenti molto molto pericolosi per la sicurezza dei pezzi, ma d'altronde era necessario che il potere si facesse vedere. La contraddizione non poteva essere come dire aggirata, perché voleva dire che il popolo ti odiava se non fossi andato per strada e che tu avevi paura, e quindi un re non può avere paura, e però effettivamente ogni tanto ti sparavano. No, era necessario. Tra l'altro ci sono dei casi molto singolari, per esempio a Lisbona c'è un bellissimo museo delle carrozze, forse uno dei più bei musei del mondo di queste tipologie. Queste carrozze sembrano delle sculture barocche, no? Perché sono tutte carrozze tra 6 e 700, tutte dorate, tutte scolpite, e uno si chiede a che cosa servissero, e c'è nella spiegazione che racconta che queste carrozze servivano ai re di Portogallo per fare omaggio al Papa, e uno pensa che da Lisbona arrivassero a Roma, invece no, le carrozze venivano smontate dettagliatamente pezzo per pezzo, caricate sulle nave, montate, rimontate a Ostia quando si arrivava con la nave, e lì il re del Portogallo faceva il grande ingresso a Roma per pochi chilometri con queste carrozze, ma non potevano credo sopportare più di un tanto credo che abbiamo detto avremmo detto un centesimo, ci sarebbe molto da raccontare. Il viaggio è stato bello, bello. Sì. Grazie Marco. Allora consiglio a tutti di andarsi a fare questo giro in carrozza alla Venaria Reale fino al 2 febbraio a Venaria Reale. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Di tu, Chiara, che cosa fa la ghiandaia? La ghiandaia della California, principalmente, che è una specie ben precisa, non è che... Diciamo che il tema che stiamo per affrontare nasce proprio da un articolo che è stato pubblicato qualche tempo fa, ma che mi è risaltato all'occhio recentemente, e quindi ho pensato così, di proporti l'argomento, poteva essere di interesse nostro e degli ascoltatori. Allora, possiamo intitolarlo così: come gli animali percepiscono lo spazio, ma soprattutto il tempo. E in particolare nella ghiandaia sembrerebbe che dopo degli esperimenti, adesso entreremo nel dettaglio, fatti da dei ricercatori di Cambridge, sembrerebbe che questo uccello sia in grado di in qualche modo pianificare il futuro. Un'agenda. Cioè pianificare in qualche modo le proprie attività, soprattutto nel recupero del cibo, nel procacciarsi il cibo, e possa in qualche modo appunto pianificare e scegliere, cioè, in maniera le scelte oggi molto, sapendo, ecco, come dire, razionale sembrerebbe, previdente, ma, ecco. E allora abbiamo pensato di contattare un esperto in questo campo, che è uno psicologo sperimentale, cioè colui che studia l'etologia degli animali attraverso degli esperimenti in laboratorio. Siamo andati all'Università La Sapienza di Roma, e qui con noi stasera c'è Vittorio Pasquali. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Ecco, io subito le ho proposto il tema, diciamo, della ghiandaia, che così, se vogliamo proprio essere larghi e un po' vaghi, possiamo dire che possa in qualche modo pianificare il futuro, però giustamente c'è tutto un discorso da fare sulla percezione del tempo negli animali e su diverse specie di animali, perché questo è stato studiato in praticamente in tutto il regno animale. Sì, esattamente, diciamo che voi avete fatto riferimento a un articolo molto interessante del gruppo di Cambridge di Nicol Clayton, e diciamo è uno dei tanti articoli che ha preso in considerazione dei temi molto caldi attualmente dello studio del comportamento. L'esperimento in particolare riguardava la memoria episodica negli animali, ma questo poi va a legarsi, questo tema della memoria episodica va a legarsi anche ad altri processi cognitivi, come il processo temporale dell'informazione e anche lo stato mentale, la coscienza, la consapevolezza negli animali. Ecco, memoria episodica e coscienza mi sembrano già delle parole piuttosto dense. Robustone. Ecco, magari se lei ci spiega, ma molto semplicemente, brevemente, attraverso gli esperimenti che ad esempio Clayton ha fatto, per farci capire che cosa significa memoria episodica. epica. Sì, nella memoria episodica, diciamo, è una delle forme di memoria più particolari che per esempio nell'uomo troviamo. E che cosa riguarda? Riguarda in particolare il ricordo di eventi, di avvenimenti particolari, ma non solo di questi avvenimenti, ma anche di posizionare questi avvenimenti nel tempo, ma anche di viaggiare mentalmente nel tempo, sia nel futuro, sia nel passato che nel futuro. Quindi noi riusciamo a collocare in maniera precisa nel temporale un avvenimento. Quindi, diciamo, questo filone di ricerca è proprio andato ad indagare se questa capacità, che è una capacità certamente di alto livello, appartiene soltanto alla specie umana o la ritroviamo anche in altri animali. E quindi l'esperimento è andato a vedere, usando chiaramente un modello molto particolare, che è la ghiandaia. Ovviamente molto spesso nella ricerca sul comportamento si utilizzano delle specie particolari, delle specie che hanno poi delle capacità molto salienti per alcuni comportamenti. La ghiandaia perché? Perché la ghiandaia tende a fare scorta di cibo. Allora, con una serie di training sperimentali in cui la ghiandaia un giorno trovava del cibo e l'altro giorno non lo trovava, in particolare ad un orario ben preciso della mattina, e per il resto della giornata invece aveva accesso ad altro cibo meno interessante per i suoi gusti, si è visto se effettivamente la sera, prima di essere esposta alla presenza di cibo che a lei piace, che poteva anche essere accumulato, faceva scorta dell'altro cibo oppure non faceva scorta di questo cibo. In questo modo si è cercato di capire se effettivamente l'animale, come dire, proiettava mentalmente se stesso il giorno dopo oppure semplicemente, come dire, era un'azione prospettica. Chiaramente, cioè, se la ghiandaia in qualche modo razionalmente pensava di fare scorta del cibo che le piaceva di più nel momento in cui le avrebbero gli sperimentatori presentato il cibo che piaceva di meno, e quindi lei li fregava e si mangiava quello buono, un po' così. Sì, diciamo, faceva scorta di questo cibo, era proprio il fare scorta che in qualche modo faceva pensare che pianificasse. E infatti, però appunto è chiaro che questo ancora non ci dà un'informazione se poi ci siano all'interno della ghiandaia dei processi mentali, cioè se lei riuscisse ad immaginarsi al giorno successivo, cioè riuscisse ad immaginare quello che succede il giorno successivo. Chiaramente l'ipotesi più accreditata è quella che ci sia un'azione prospettica più che un viaggio nel tempo della ghiandaia. Però questo è stato comunque un esperimento molto importante perché le teorie accreditate fino a quel momento non davano valenza al fatto che potesse esserci un comportamento di questo tipo in animali non umani. Ecco, sì. Invece poi, insomma, da lì si è aperto tutto un filone, siamo partiti da qua anche noi e abbiamo visto che lei stesso mi ha mandato degli articoli scientifici su, ad esempio, il colibrì, che è un'altra specie di uccello, ma anche su animali, tra virgolette, inferiori, cioè invertebrati, come ad esempio i bombi o le api, in cui appunto vengono fatti questi esperimenti e in qualche modo si capisce che hanno la percezione del tempo. Alcuni, ad esempio, se non erro, i bombi addirittura riescono a riconoscere gli intervalli di tempo, cioè se passano 5, 10 o 20 minuti. Sì, perché appunto la problematica che viene studiata, cioè quella della memoria episodica o di quello che assomiglia alla memoria episodica negli animali, ha a che fare anche con un'altra tematica molto particolare, che è quella della percezione e della rappresentazione del tempo, proprio perché appunto la memoria episodica riguarda appunto l'immaginare il tempo, riuscire a percepire mentalmente il tempo. E gli altri due esperimenti molto interessanti sono stati fatti, uno sui colibrì, e questo esperimento è stato fatto in natura, diversamente dall'altra gran parte degli esperimenti, viene fatto in condizioni controllate di laboratorio, e quindi l'animale non solo veniva addestrato a riconoscere ad andare su un determinato fiore, ma anche ad andarci ad intervalli di tempo ben precisi. Quindi si è visto che l'animale riusciva a percepire appunto il trascorrere del tempo, quindi a presentarsi sul fiore giusto, cioè il fiore che veniva nuovamente riempito di cibo in un momento ben preciso. E la stessa cosa è stata fatta anche con i bombi, in questo caso un esperimento molto particolare perché è stato costruito anche una strumentazione, una gabbia di Skinner per l'apprendimento operante, proprio per i bombi, e quindi il bombo veniva addestrato a inserire la sua proboscide per succhiare il nettare in un buchetto molto piccolo, e questo chiaramente veniva raccolto automaticamente da una serie di apparati. E anche in quel caso si è visto che l'animale non solo apprendeva una serie di cose e quindi teneva memoria, ma riusciva anche a distinguere una serie di eventi temporali ben precisi, alcuni minuti o secondi. Senta Pasquali, però mi pare che ci sia un punto molto specifico e sottile forse da chiarire, perché penso che sia tutti portati a dire ma la formichina che raccoglie tante bricioline, anche le api dei piccoli insetti, e le porta nel nido in attesa, appunto, in previsione dell'inverno nel quale sarà più duro fare, e loro avranno nel nido tutte le provviste, qui siamo nel massimo della previsione del futuro, ma in realtà queste cose potrebbero essere comportamenti puramente istintivi legati all'atmosfera, al ciclo biologico, e quindi non avere una relazione con una capacità di prevedere, no? Sì, no, infatti qui stiamo parlando di esperimenti che ovviamente con una serie di procedure sperimentali distinguono proprio dei comportamenti semplicemente associati o appresi da invece mettere in atto un certo tipo di comportamenti e mettere in atto anche dei comportamenti con una tempistica ben precisa. È chiaro, sono due cose completamente diverse che possono assomigliare ma invece vanno fortemente separate. Sì, ma chiaramente fanno però poi riferimento proprio a quello, perché chiaramente questi comportamenti che vengono studiati hanno sempre a che fare con le questioni di base della vita, che sono appunto la disponibilità di cibo, la presenza di predatori, e quindi queste capacità che vengono studiate dagli animali in natura poi servono esattamente a questo, cioè al foraggiamento e a prevedere e anticipare la risposta per esempio dei predatori. Prima en passant lei diceva, ha nominato il nome coscienza degli animali. Ecco, da questo punto di vista, a che punto siamo, e se c'è una ricerca che sperimenta e osserva questo che sembrava un comportamento prettamente umano? Tema molto, tra l'altro, sottile di questi tempi quando si parla di sperimentazione animale. Beh, questo è un tema molto delicato, chiaramente. A che punto siamo? Beh, siamo al punto che sappiamo che non c'è o tutto o nulla, nel senso che bisogna pensare al più che alla coscienza, alla consapevolezza, in termini di un qualcosa che va a svilupparsi, quindi che cambia qualitativamente. E per quanto riguarda per esempio proprio la memoria episodica, è chiaro che nel momento in cui dovesse esserci una memoria di questo tipo, esattamente uguale a quella che c'è negli uomini, in animali e in umani, saremmo probabilmente di fronte a una capacità, a una consapevolezza da parte degli animali. Chiaramente tutte le ricerche hanno dimostrato che così non è, ovviamente, però appunto la questione non è se c'è o non c'è, ma quanto è differente. E questo per il momento è ancora galleggiante, non abbiamo dati a sufficienza. Non c'è bianco, non c'è nero, ci sono delle gradazioni di grigio che vanno tutte ancora interpretate, valutate. Grazie Pasquali, buon lavoro. Allora ci faccia sapere qualsiasi novità le arrivi. Grazie a voi. Buon lavoro, arrivederci. Buonasera. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Fare ospedali in Africa. Nei titoli abbiamo detto, può essere un'attività che dà interessanti suggerimenti per fare ospedali qua. Questa cosa vi può sembrare strana, ma vedrete che fra poco non lo sarà affatto strana. Per parlare di questo ho qui con me questa sera l'architetto Raul Pantaleo. Buonasera architetto. Buonasera. Lei è dello studio TAM Associati, lo studio è basato a Venezia, da quelle parti? A Venezia proprio. Voi avete lavorato recentemente a un progetto di ospedale per emergency a Khartoum, vicino a Khartoum, in Sudan. È un ospedale del quale probabilmente anche chi ci ascolta un po' di notizie l'ha ricevuto, perché se ne è parlato un poco recentemente. Un ospedale con prestazioni molto elevate, no Pantaleo? Sì, diciamo che è un ospedale innovativo soprattutto nel contesto africano e nel contesto del mondo della cooperazione. E il mandato che avevate in generale era avere appunto una struttura ospedaliera nella quale anche noi metropolitani europei potremmo essere ricoverati, no? Assolutamente, questo è un po' il mandato iniziale di Emergency su quell'ospedale, ma su tutte le strutture sanitarie che ha realizzato Emergency in passato e anche negli anni recenti, cioè considerare la cooperazione come progetto di condivisione di saperi e di risorse che invece che di puro dono, per cui anche certo. Il fatto di lavorare su progetti di alta qualità. Nel preparare questa intervista, Pantaleo, io le ho portato l'esempio di un'esperienza personale che ho avuto parlando tempo fa, parecchi anni fa, con un architetto che era impegnato in una progettazione di ospedale in Mali e mi raccontò che fecero dei primi progetti e poi in loco, confrontandosi con la realtà locale, risultò che questi progetti dovevano essere completamente rifatti. Per esempio, era determinante che le stanze in cui le persone, i malati, erano ricoverate avessero assolutamente uno sbocco facile verso l'esterno. Perché? Perché era normale che con un ricoverato o una ricoverata porzioni significative della famiglia si stabilissero nelle immediate vicinanze dell'ospedale, quindi addirittura della stanza, per poter seguire il malato. E quindi questa era, come dire, una capacità di interpretare usi e tradizioni locali. Io le ho parlato di questo come probabilmente un buon modo per progettare e lei invece mi ha completamente rovesciato la frittata. Ecco, lo faccio anche adesso. La questione è che l'approccio che noi abbiamo alla progettazione è quello di una progettazione ospedaliera che tenga conto di tutti i sani principi di igiene, di correttezza nei percorsi, per cui la presenza dei parenti negli ospedali africani è dovuta essenzialmente a un fatto sostanziale, il fatto di dare assistenza ai propri cari. Nel senso che non essendoci strutture di supporto, per cui cucine, lavanderie e quant'altro, i pazienti sono obbligati ad avere l'assistenza dei parenti. Allora, nei nostri ospedali il criterio è quello di dare un'assistenza completa, che vuol dire cibo, pulizia, igiene. Ah, perché ospedali... lei mi sta dicendo che nell'ospedale classico africano non c'è praticamente assistenza al malato e quindi questo fatto di avere i parenti fuori era, come dire, qualcosa per riuscire a compensare questo vuoto, mentre invece non dovrebbe esserci. Assolutamente, nel senso che la presenza comunque nelle stanze di un operato di qualunque natura significa avere persone che portano una carica batterica, persone che comunque creano disordine, che comunque fanno attività che sono esterne all'attività ospedaliera, per cui ovviamente i parenti, soprattutto nel caso di parenti provenienti o di pazienti provenienti da zone remote, hanno la possibilità di rimanere nei nostri ospedali. In tutti i nostri ospedali c'è una guest house, c'è una casa che per ospitare i familiari, però è separata dall'ospedale e seguono le regole del fatto di poter andare a visitare i parenti negli orari di visita. Normalmente. Quindi quello che lei mi sta dicendo, e probabilmente ci sono altri esempi, è attenzione a non sembrare rispettosi di tradizioni quando in realtà questo significherebbe portare meno efficienza e quindi togliere efficienza alle persone. Ecco, però, tornando proprio poi al titolo, e questa è la seconda cosa che le voglio chiedere, che abbiamo dato a questo servizio, lei sostiene, voi sostenete che ci sono delle indicazioni interessanti da questo tipo di progettazione che avete fatto giù in Africa per come potremmo fare un po' diversamente gli ospedali qua. Cosa significa? Ma guardi, l'esperienza di questi 10 anni di progettazione in situazioni estreme dal punto di vista climatico, in situazioni di guerra, in situazioni in cui le scelte sono molto limitate dal punto di vista tecnico, logistico, di risorse economiche, ci hanno insegnato a lavorare innanzitutto col buon senso, a lavorare con poco, a chiedersi sempre qual è la scelta migliore al minor costo. Questo che in qualche modo era un un'esperienza che era, diciamo, legata a questa storia africana, paradossalmente in un momento di crisi, in un momento in cui stiamo in qualche modo rivedendo anche i parametri della nostra società, anche della progettazione della nostra società, stanno diventando degli elementi di grande utilità, cioè affrontare un progetto a partire da quanto si ha a disposizione, da partendo da elementi semplici, chiedendosi sempre che cos'è realmente essenziale, cioè proprio una sobrietà nell'approccio è diventato uno strumento utilissimo anche nell'affrontare i progetti in Occidente. Cioè, le chiedo in breve praticamente, voi avete gli elementi per dire che nei nostri ospedali si potrebbe avere assolutamente la stessa efficienza, riducendo però tutta una serie di costi, di interventi che risultano di fatto eccessivi, superflui? Ma sì, questo ha a che fare da un lato probabilmente a tutta una serie di normative applicate in modo pedissequo, prese alla parola, alla lettera, senza farsi domande su come possono essere applicate. E dall'altro anche un processo di deresponsabilizzazione dovuto all'eccessiva specializzazione del nostro approccio progettuale. Sì. Questo significa, a nostro avviso, spreco da un lato e poi la mancanza di ottimizzazione dell'approccio progettuale. Quindi anche indicazioni di produzione ed efficienza nella gestione, non solo nelle strutture. Guardi, è proprio a nostro avviso, quello che io amo sempre chiamare nel processo nei nostri ospedali, è un processo, è come una specie di cantiere medievale in cui più persone, tutta una comunità lavora a raggiungere lo stesso obiettivo. E questo significa proprio chiedersi passo per passo quali sono le scelte giuste, le scelte più razionali, soprattutto le scelte che sono più vantaggiose per il progetto. E credo che questa attitudine, questo modo di pensare sia un modo di ragionare rispetto anche al bene pubblico come un bene che ci appartiene. Ovviamente noi nel momento in cui progettiamo un ospedale di emergency, essendo anche noi volontari di emergency, parte integrante dell'organizzazione, abbiamo a cuore che questo sia funzionante, che abbia una bassa manutenzione e soprattutto che costi il meno possibile. E anche che costi meno possibile poi nel corso della gestione, della manutenzione, per cui è proprio una presa di responsabilità individuale da parte di tutta la catena decisionale. Solo che quello che verificate è che per molti aspetti questa non è, come dire, una scelta per dove andate a operare, ma è una scelta che ha un valore di per sé, che quindi potrebbe essere anche effettuata qua. Sì, questo lo misuriamo anche da un crescente interesse che vediamo in queste esperienze, che non sono più relegate quasi a questo episodio lontano di quasi caritatevole fatto in Africa, ma diventano esperienze proprio metodologiche che stanno diventando una sorta di risorsa, cioè anche il premio Aga Khan vinto recentemente in qualche modo mostra questa grande attenzione che inizia ad avere i progetti africani, ma non soltanto come oggetti in sé, ma proprio come approccio a ritornare a una progettazione etica, una progettazione che abbia a che fare con il risultato e non con la forma. Raul Pantaleo, la ringrazio, buon lavoro, buona ricerca. Grazie a voi e buonasera. E come ogni tanto vi diciamo qua in conclusione di puntata, quello che avevamo da dirvi ve l'abbiamo detto. Però resta ancora tantissimo e quindi ci risentiamo qui la prossima settimana. Buona settimana a tutti e a tutte.